più salario meno orario, più trattenuti al signor Milan, più salario meno orario. Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Siamo qui cari ascoltatori, uno, nessuno, 100 Milan in questa puntata di giovedì gnocchi, quindi giovedì Mario Calabresi. Eccoci qua. Buongiorno Mario, come va? Buongiorno a te. Buongiorno a tutti. Calabresi, allora, bolscevico! Sì, vabbè, dobbiamo aggiornarla sì, ma te lo però, sei, questa... ce l'hai in casa ormai. No. Secondo me no, sembrava venisse dall'altra stanza, lo tieni in cucina. Sì. In realtà il colpevole, io difendo sempre i miei collaboratori, è l'Alpino in regia che fa tutto in autonomia e quindi è colpa sua, prenditela con lui. Radio al suo fianco, eccolo là. Saluto tutta la redazione, Elisabetta Fusconi. Sai che c'era Telecabul, ti ricordi? Telecabul, sì. Rai 3 di Sandro Curzi. Sì. Allora, noi abbiamo Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e Miriam Lucchetti. La nostra redazione, come detto, oggi c'è Mario Calabresi con voi. E che dire, abbiamo tante cose da dire. Ovviamente i numeri sono i soliti: 800240024. Scriveteci 349-238-6666 e scriveteci 100milan@radio24.it. Vai Alpino, vai. Enthusiasm about the future. Allora, intanto, guarda, caro Mario, prima di chiederti alcune cose, sai che io da tempo qui ho istituito il premio Giachetti. Devo dire, mi assumo la responsabilità. Oggi ho letto l'intervista al deputato della Lega, si chiama Giuseppe Basini, ha 73 anni, è entrato alla Camera con 37,7 di febbre, è stato intervistato dal Corriere della Sera. Risultato, non sto dicendo che sia una conseguenza, ma il sospetto c'è, ci sono 7 infettati col coronavirus, tra cui alcuni colleghi leghisti, quelli che erano vicini. E lui ha detto, no, ma io sto benissimo, ero solo accaldato perché avevo fatto un po' di giardinaggio. Allora io ho questo progetto, Mario, ogni tanto, prima o poi un giorno lo faremo, ma entreremo alla positivo? Camera. No, lui ha detto, dice, sto bene, io sto bene, adesso sto bene, sì, tra l'altro dice, avevo in tasca la mascherina, mica lo sapevo che era obbligatorio, cioè uno delle poche persone un pochino fuori dal mondo, ecco. Comunque fatemi entrare alla camera di nascosto e lo lascio lì subito in apertura, lo lascio lì Alpino, io lo depongo lì, qualcuno poi lo prenderà. Hai la faccia come il culo. È il premio Giachetti, scusa, lo dovevo mettere alla camera, poi per qualcuno, poi qualcuno lo prenderà. Scusa, dove ha fatto il giardinaggio? No, a casa sua, non lo so, dice, ho fatto giardinaggio e comunque ha detto io avevo misurato la temperatura col termometro al gallio e al mercurio, che sono molto più precisi, avevo 36,8, comunque sta di fatto, tu dici ah, ok, allora tutto a posto. Bene. Caro Mario, ti chiedo, sai che ci stanno riversando di mail chi critica e chi dice smettetela di criticare per questa fase 2 o 1,5 o 1,75. Tu hai un'idea? È chiaro che non è facile, lo sappiamo che non è facile mettersi lì al potere e decidere per 60 milioni di italiani. Guarda, non sentendoci da una settimana, ti rimetto in fila, come dire, quello che penso. Non ho l'obbligo come te di dirlo tutti i giorni, che è durissima. Una cosa dobbiamo riconoscerla: questa malattia, questo virus, non è colpa di nessun governo, non è colpa di nessuna fazione politica, perché questa qua ogni tanto è bene ricordarselo. Questa qua è una sventura che è capitata a tutto il mondo e che non è, diciamo, ah, ma no, ecco, scelte politiche sbagliate ci hanno portato in questa situazione, eccetera, eccetera. Questa roba qui Sono cose della natura con cui dobbiamo fare i conti. È come quando arriva lo tsunami, non è che lo tsunami era colpa di qualcuno. Certo, possiamo dire ci fossero stati i sistemi d'allerta, si potevano salvare delle vite, però ci sono delle cose che, su cui, perché se adesso la sensazione di moltissimi interessi particolari è dire no vabbè, ma adesso basta, dateci la possibilità di fare questo e quest'altro, ma tante cose se non le possiamo fare non, io non sono tenero con Conte, ma non può essere colpa di Conte o colpa di anche di Boris Johnson o di chiunque, e questo è un dato. L'altro però è che si continua a stare fissati sul dito e non sulla luna. Il dito che cos'è? È il come e il, cioè sono il quando e chi riapriranno. A me non interessa sapere, posso andare al mare ma di spiaggia, di scoglio, nello stabilimento oppure no, la regione, faccio questo, faccio quest'altro, una serie di cose, i parrucchieri 15 giorni prima, 15 giorni dopo, il cibo da asporto, sì no, tutte questi qui sono delle conseguenze. Il punto è che bisogna fare un passo indietro. Il governo una cosa deve fare. Io l'unica fissazione tutti i giorni mi chiedo, ma perché non si concentrano su quello? Ed è, non è dare le date di qualche cosa, ma mettere a punto un protocollo, cioè il come. Tutto il resto viene di conseguenza. Il come è mettere nelle condizioni di far sì che oggi uscire sia più sicuro che tre mesi fa. E quindi fare i tamponi alle persone che si ammalano, andare in giro con le mascherine, non un giorno dire... No, devi andare con la mascherina, però potresti anche non tenerla questa mascherina se stai a un metro, però i virologi invece ti dicono due metri, un metro e mezzo, boh vabbè sì fai un metro e mezzo, ma no, ma dammi delle, dammi tre cose certe, stai a due metri, porta la mascherina e poi facciamo i tamponi e facciamo l'isolamento. Io ti faccio un esempio. Guarda, banale, tu... scusa se vado... sul personale, ma poi le cose quando le vedi da vicino. Io ho un fratello che vive da solo, il fratello più piccolo, che ha avuto evidentemente il Covid, una settimana di febbre altissima, la tosse molto forte eccetera eccetera, e poi ha perso completamente l'olfatto e il gusto. Non ha mai visto un medico, ma non pretendeva in questo tempo che andassero a casa da lui, non ha avuto un tampone, teoricamente la sua attività riapre, lui non ha la minima idea, sono ancora positivo, posso tornare in ufficio, certo, posso andare a lavorare, non è neanche tra le statistiche e però non sa che cosa fare e telefona e gli dicono non so, vedrà, intanto stia ancora qualche giorno a casa. Mia madre nel momento dopo la conferenza stampa di Conte che ha detto andate a trovare i genitori, i congiunti sì, eccetera stabili, eccetera, vabbè. Mia madre ha chiamato mio fratello e gli ha detto non ti permettere di presentarti al citofono. No, ma guarda, tu io lo dici, sto come nella dici mia oggi. Quarantena, non vi avvicinate. Sì. Allora, questo è il punto. Finché non c'è una rete, tutto il resto è inutile. Guarda, le parole oggi del professor Remuzzi. No, ma figurati, intervistato al Corriere della Sera da Marco Imarisio, Remuzzi dice proprio questo, dice non erano le priorità il calcio, gli orari dei parrucchieri, le definizioni di congiunto, ma organizzarsi per contenere i contagi, cioè un piano medico serio. Allora tu ci stai dicendo, poi verrà di conseguenza il riaprite il 18 maggio, 1 giugno, eccetera, ma prima ci voleva alla base, ci vuole alla base una strategia medica, ecco, questo ci stai dicendo. Dopodiché tu sei appassionato di tutte le questioni governative? Cade Conte, l'accerchiamento a Conte, no, rimane non molto. Conte, l'abbattimento non molto. Di Conte. Ho passato troppi anni a Roma e diciamo così, quel che mi è rimasto è una nausea diffusa per il toto crisi. È crisi, arriva, non arriva. Un'altra cosa pericolosissima che vedo è questa qui, che adesso ogni partito o pezzo di partito si intesti una piccola lobby e quindi uno diventa il difensore dei parrucchieri, poveretti. Ti apro una parentesi, c'è una storia di cui non si parla. Tanti parrucchieri sono infuriati non tanto perché non aprono, perché ci sono dei colleghi che vanno a casa, che vanno a casa, che lavorano in nero, senza sicurezza, quindi quelli seri e onesti che hanno invece i loro negozi e che stanno chiusi dicono scusa un attimo, ma perché quelli vanno a casa? Allora permetteteci in sicurezza di poter andare a casa facendo la ricevuta, comportandoci correttamente. E questa qua stanno iniziando ad esserci furbizie. Comunque, se ogni partito si intesta un pezzettino e fa una battaglia così, diventa, si moltiplica il caos, perché poi ogni regione va per conto suo, ogni partito porta a casa qualcosa. Adesso poi, siccome il governo oggi probabilmente Conte dirà che non va più avanti con i decreti, ma si passa dal Parlamento, il Parlamento sarà una roba per cui ognuno dirà sì, no, io ti faccio passare, ma tu però devi mettere che nel mio comune si può fare diversamente. Certo. Questa è garanzia del secondo lockdown. Allora, sentiamo Zaia dice: abituiamoci alle mascherine, anche perché fa questa metafora, dice: non è che quando usciamo di casa usciamo nudi, no, ci vestiamo, e la mascherina ormai fa parte del vestiario. Vai, Alpino. Direi che per assurdo dovremmo anche cancellare tutte le leggi sulle mascherine, perché dovrebbe essere come quando si esce di casa, non c'è nessuno che esce nudo, no? Ci si veste, non serve fare una legge per gli indumenti. E direi in egual misura è fondamentale ricordare ai cittadini che è fondamentale la mascherina. È fondamentale la mascherina, e va bene, certamente. C'è poi questo aspetto: secondo alcuni giornali ci sono i controstudi, caro Mario, cioè a dire messo avanti questo studio che ipotizza tra gli scenari 150.000 persone in terapia intensiva, una cifra spropositata. Ma in realtà questo studio è semplicemente prende anche in possibilità uno degli eventi più catastrofici, cioè 151.000 è se si tornasse a 3 mesi fa facendo finta che il virus non esista. E quindi è uno scenario che punta al terrorismo sanitario, ma in realtà è uno scenario assolutamente non attendibile. Non lo so, c'è questo, no, lo stesso Remuzzi lo dice, è un dossier esagerato, ecco, questo con ma sì, è un modo del governo di difendersi a chi lo accusa di essere eccessivo. Scusa, vediamo una cosa, e oggi è evidente che uguale all'inizio di marzo non torniamo, perché comunque tante persone, al di là di quello che ci dicono, le precauzioni ognuno di noi le prende, cioè le attenzioni, i guanti, la mascherina, le distanze, eccetera, eccetera. Quindi un ritorno ci può essere, e il rischio che c'è è reale, però non è pensabile a quei livelli, o peggio di quei livelli di prima. Questo sì, questo assolutamente. Allora, caro Mario, a me appassiona da qualche giorno il dibattito sul tema libertà e salute lanciato dall'ex ministro tedesco Schäuble. Sul tema va bene la salute però non può essere un valore assoluto, se per ottenere la salute dobbiamo un po' derogare in termini di dignità della vita e quindi cedere la libertà. Per esempio mi interessa il modello svedese, dove dicono: abbiamo capito che bisogna convivere col virus con responsabilità, certo questo aumenta i contagi, però la libertà è un altro valore da preservare. Allora, di questi temi vorrei fare due chiacchiere insieme a te e al professor Vito Mancuso, che torna con noi. Buongiorno, professor Mancuso, filosofo, teologo. Buongiorno. C'è Mario Calabresi, che lei conosce, bene. Buongiorno, Calabresi, certo. Allora, professor Mancuso, il tema è chiaro: la libertà, la salute. C'è un valore assoluto dietro il quale dobbiamo mettere tutti gli altri valori, o non esiste un valore assoluto per tutti? Ma guardi, non è semplicissimo rispondere così, però se io dovessi trovare la parola che dica tutto, direi vita, e poi specificherei che cosa si intende per vita quando parliamo di vita umana, perché l'antica saggezza al riguardo ci può aiutare. I greci, quando parlavano della vita, dicevano bios, dicevano zoe e dicevano psiche. Allora bios biologia, zoe zoologia, psiche psicologia. Noi siamo vita biologica, noi siamo vita zoologica, vita animale, con gli istinti, l'aggressività, la difesa, tutte queste cose che sappiamo, e siamo psiche, spirito. Quindi quando se proprio dovessi dire qual è la parola, la formula per orientarsi nella giungla delle parole, beh, io direi rispetto per la vita, ma intendendo vita completa, questi tre livelli. Quindi quando uno rispetta la mia vita, deve rispettare tutti e tre i livelli, compresa la mia libertà. Uno non può rispettare la mia vita biologica e non rispettare la mia vita psicologica, la mia vita ideale, le mie scelte, le mie aspirazioni. E quindi questa è la bussola. Poi, dopodiché, in concreto. In concreto non è facile, però quando io dico in questi giorni, l'ho detto come una provocazione, e cioè a dire, va bene, tuteliamo le persone più fragili nel senso degli anziani, però per fare questo abbiamo messo per esempio moltissimi ragazzi, bambini, disabili piccoli in mano ai genitori, sempre rinchiusi in casa, abbiamo tolto loro delle libertà in nome di una difesa della salute collettiva. Ci sono appunto anche queste libertà un po' violate, devo dire, limitate, ecco, è giusto? Proprio pongo la questione dal punto di vista etico, è giusto? Lo chiedo a lei, lo chiedo anche a Mario Calabresi. Secondo me, penso sia inevitabile di fronte a una situazione di questa portata, capire qual è il bene maggiore in questo momento, quindi posta quella scaletta che ho fatto prima, che è la bussola, e poi a seconda della situazione concreta si va a vedere in questo momento la vita bios, la vita biologica è obiettivamente molto minacciata, e quindi accettare alcune restrizioni della vita, chiamiamola psichica, e quindi della libertà di movimento, di espressione e così via, mi sembra fonte di saggezza, compresa quella religiosa, perché io francamente questa polemica dei vescovi sulla libertà religiosa violata mi sembra veramente eccessiva come minimo. Ecco, mi sembra logico semplicemente accettare questa fase, l'importante è che ci sia chiarezza sul futuro, ecco. Mario, tu che ne pensi? Anche in Germania fanno bene a dire riapriamo con la responsabilità, però aumenteranno i casi. In Svezia conviviamo col virus, poi ovviamente i più fragili rischiano di morire. Ascolta, però teniamo presente che in Germania dicono riapriamo, ma hanno messo su un sistema di tracciamento, sì, hanno assunto più di un mese fa non so quante migliaia di persone che vanno a domicilio a fare i test e a tracciare i contagi, cioè, preoccuparsi anche di tutti gli altri, cioè di quelli che si salvano la vita ma hanno poi un costo altissimo. Si può fare costruendo delle reti di sicurezza. Naturalmente, se la mettiamo brutale, che dice, ah no, ma allora tutti liberi e poi contiamo i morti, allora questo è terribile, di fronte a questo non puoi che dire, no, io metto prima la vita umana, come fai a dire, no, vabbè, io metto prima... È sbagliato porla su, da un lato c'è la tenuta economica e dall'altro ci sono le vite. Bisogna fare in modo da proteggere, da costruire dei sistemi di difesa. Questo va fatto. Ecco, questa idea della tenuta economica è molto interessante. Si è parlato, professor Mancuso, dell'idea che questo virus ha messo anche in crisi un certo modo di vivere. Qualcuno si spinge a dire mette in crisi una forma di capitalismo che non potrà essere più così. Lei si spingerebbe a fare questo tipo di riflessioni oppure sono esagerate? Alla fine sa cosa succede, che di fronte a un fenomeno nuovo ciascuno proietta le sue paure e i suoi desideri, e quindi è anche evidente che ciascuno di quelli che non sopportavano il capitalismo proprio nella maniera più assoluta dicano adesso dobbiamo rivedere tutto. Così come altri dicono tutto tornerà come prima, anzi con più bramosia, con più volontà di consumare, di produrre, di antropizzare qualunque centimetro quadrato del nostro pianeta. Io cosa devo dire? Francamente penso come ogni persona ragionevole di fronte a due valori, uno il valore economico, perché non si può prescindere da questo valore, e l'altro il valore ecologico, che pure è assolutamente decisivo. Mi piace, io vivo nel centro di Bologna da qualche anno, mi piace respirare un'aria diversa, rispetto a prima. Mi piace vedere quelle immagini che ci fanno vedere dei delfini, dei pesci e così via, che tornano gli uccelli e così via, cioè, e stiamo meglio da questo punto di vista. Quindi qui dovrebbe essere il compito di una classe politica degna di questo nome comporre le due esigenze. Io non penso che tutto il modello precedente debba essere mandato, né è possibile né è auspicabile, anche perché non ne conosco di migliori di modalità di intendere e interpretare l'economia rispetto al nostro modello che abbiamo. Quindi no, ci sono però dei limiti, certo che ci sono dei limiti, perché la questione ecologica non è una questione, come dire, su cui sorridere, esiste ed è un grosso problema. Qualcuno addirittura dice, se ricordo bene, uno studio di Harvard, che addirittura ci siano connessioni evidenti tra la dimensione di inquinamento e di diffusione del virus, e quindi anche questa cosa va tenuta presente, ma sì. Però occorre appunto studiare, avere idee chiare e soprattutto comporre i problemi, non lottare contro un'ipotesi o contro altro, ma comporre, capire qual è il valore di una posizione, il valore di un altro, cercare il punto di sintesi. Questo da sempre è la lezione. Mario Calabresi, ti ricordi che parlavamo di Greta, sembra un'era fa di tutte queste, no, di Greta Thunberg, di tutte queste, che ne sarà, di secondo te ne beneficerà quel movimento da tutta questa vicenda oppure no? Sembra già cosa antica, appare un po' superata, però io credo che in questo tempo in cui tutto è stato fermo, e come diceva il professore, abbiamo apprezzato comunque sia una cosa, l'abbiamo apprezzata, che è l'aria, i risentire gli uccelli, anche risentire le campane che io non sentivo perché il traffico le copriva, scoprire anche che io credo che un po' di cambio ambientale ci sarà. Penso che più gente, anche per esempio per mere questioni pratiche, tra prendere la metropolitana o un autobus nei prossimi mesi o andare in bicicletta, io penso che molti propenderanno per la bicicletta. Credo che da questo punto di vista ci sarà una maggiore sensibilità. Io sul cambio di modello economico francamente non ci credo, anzi, perché penso che la gente sta soffrendo così tanto dal punto di vista economico che appena può cercherà di riconquistare dei pezzi che ha perso. Quindi che cambi il modello economico non ci credo. Penso invece che come sensibilità ambientale qualche cosa stia cambiando. Sì, ma certo, ma perché questi salti di specie dei virus abbiamo scoperto dal libro Bibbia che ci hai consigliato, caro Mario, quello di David Plowman, Spillover, che in realtà è un po' l'invadenza dell'uomo nei confronti della natura, che spesso porta a queste prossimità con le specie animali da cui poi arrivano i virus. Quindi certamente c'è una certa responsabilità. Professor Mancuso, noi la ringraziamo. Qualcuno dice che lei ha fatto un accenno alla religione sull'aspetto della polemica. Qualcuno dice che i diversi modelli, che ne so, quelli nord europei e quelli nostri, dell'approccio alla libertà, sono anche legati al fatto che qui abbiamo il cattolicesimo, in altre zone geografiche non c'è questa forte pressione del cattolicesimo, e questo comporta altri modelli, tipo quello svedese del siate responsabili, siate liberi, se muoiono i più fragili è un po' la natura che prevede questo. Lei, professore, che dice? Ma sì, può esserci che questa dimensione di una chiesa, chiamiamola più popolare, ancora un po' più popolare rispetto alle chiese protestanti, estremamente secolarizzate, quasi deserte, direi anche tese come luogo di culto del nord Europa, porti a questa differenza di valutazione. Comunque il fanatismo religioso in questi momenti emerge in modo particolare. Io leggevo l'altro giorno delle comunità di ebrei ortodossi e newyorkese che sono preda di grandi problemi sanitari. La stessa cosa sia per alcune sette musulmane. Cioè, in generale qui emerge, parlando di religione, una questione decisiva, cioè coloro che interpretano la religione all'insegna di quella vita psichica di cui parlavo prima, cioè a servizio, mettendola a servizio della libertà dell'individuo, della dignità dell'individuo, e quindi non volendo imporre nulla, e coloro che invece ritengono che la religione sia il valore assoluto, la loro religione, poi ciascuno la loro, il valore, e non sanno comporre le loro esigenze di primato e di affermazione rispetto al bene comune. Noi la ringraziamo, professor Mancuso. Bene, e io volevo prima di andare in pubblicità, grazie davvero, visto che Mario tu hai le antenne dritte sempre sull'America, una domanda sugli Stati Uniti te la devo sempre fare. Ha citato il professor Mancuso gli Stati Uniti. Sì, no, negli Stati Uniti sono successi dei fenomeni sulla religione. Da un lato gli ebrei ortodossi di Brooklyn, che hanno continuato per esempio a fare dei riti, per esempio il funerale di un rabbino alcuni giorni fa, in cui si sono messi tutti insieme, e grande propagazione di virus, tant'è che il sindaco Di Blasio ha fatto un attacco durissimo dicendo dovete rispettare le regole come gli altri. Dall'altra parte ci sono stati una serie di pastori evangelici, sostenitori di Trump, con un'idea appunto che lo Stato non... Noi rispondiamo a Dio, lo Stato non ci deve dire cosa dobbiamo fare, che hanno continuato a predicare. Vedevo un articolo l'altro giorno che c'è stato un numero di contagiati e di morti nelle loro chiese e persino tra questi pastori sopra la media. Sopra Quindi, la media. In un certo senso c'è... Il Papa ha risposto meglio di tutti. Il Papa l'altro giorno ha chiuso questa cosa qua. Non è che le religioni possono essere delle lobby come i ristoratori, i parrucchieri, gli alberghi. La religione uno può pregare stando a casa, non ha bisogno di andare in chiesa. E quindi mi sembra che lui, da questo punto di vista, Papa Francesco ha dato una risposta chiara, ha fatto capire che l'importante oggi è proteggersi. Sarei curioso di sapere quella famosa Università della Virginia che c'è. Citato, sì. dove hanno aperto, sarebbe interessante capire com'è andata. La prossima volta vai a vedere come se ci sono dei contagi, se ci sono dei numeri, perché cos'è che aveva detto il rettore di fatto, che Dio ci aiuterà. Sì, sì, esatto. Diciamo così, se c'hai una popolazione che perché lui ha high school e università, se tu hai una popolazione che va dai 16 ai 23 anni, sì, diciamo che sei più aiutato. Sei più aiutato. Forse è stata un'università. Esatto. Della terza speriamo età che non sarebbe ci sia... stato diverso, faceva lo sportivo sì, perché aveva tutti dei ragazzini. Speriamo che Dio non si sia distratto comunque lì in Virginia. Va bene Mario, noi ti salutiamo, domani la newsletter di Mario Calabresi, perché è il 1° maggio, tutti i lavoratori non lavorano, ma tu la fai oggi però, quindi è a disposizione da domani, e domani santifichi la festa dei lavoratori. Ti metto sull'internazionale, se non la santifichi. Va bene. Grazie Mario Calabresi, ciao, ci sentiamo ciao, presto. A voi tutti. Un grande buona giornata abbraccio. A tutti. Andiamo in pubblicità, e poi a proposito di questo, di libertà violate, mi fa molto piacere ospitare tra poco un padre di due figli disabili, in una situazione di grave difficoltà economica e psicologica, che mi ha scritto e ci ha contattato, e lo sentiremo ai nostri microfoni. 1, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, non è colpa di nessun politico, ma queste persone prendono 20.000 euro al mese per fare che cosa? Quando va tutto bene il mondo va avanti da solo. Adesso che devono dimostrare le loro capacità non ne hanno. E allora perché dargli 20.000 euro al mese quando c'è gente che muore di fame? Ma come Milan, giovedì gnocchi, come gnocchi, come gnocchi! Non ti ricordi che c'è lo sciopero di Don Livio, lo sciopero della fame? Non mangiare più Milan, non mangiare più! Oh, yeah. Radio Ticino, buongiorno! È vero, porca miseria, c'era lo sciopero di Don Viola, Don Lino Viola, che aveva proclamato lo sciopero per oggi per solidarietà per la messa interrotta. E io sono subito partito e poi ho fatto colazione, niente. No. Leonardo Manera, meno male che mi salvi tu, meno male che mi salvi buongiorno, tu. Buongiorno. Allora, come va? Tu sei in digiuno, sì. No, io sono in zona 4 salti in padella, direi. Io ma come così. Sono le 9:35 minuti del mattino? In linea generale, dicevo, in linea generale. Ho cucinato qualcosa anch'io in questo periodo, però ogni tanto mi rifugio nei precotti surgelati. Ecco. Quindi consiglio a tutti di fare così, solo surgelati. Questo è il mio consiglio di salute per questo periodo. Allora, è arrivato un messaggio prima, in realtà diceva, dai, individuateli con Calabresi, ma individuiamoli anche con Manera. A chi andrà ancora meglio? Mi scrive ancora più bene l'ascoltatore. Chi andrà? Dai, allora, dai, Manera, di tre persone a cui andrà ancora meglio. Io una categoria è Manera, tanto lui in vestagliona era e in vestagliona rimane, insomma si sarà preso su Amazon una vestagliona di lino tutta precisa, perfetta. Damascata. A chi andrà meglio? Non lo so a chi andrà meglio, caro ascoltatore. Come sempre, io credo che andrà bene, andrà meglio, come sempre, ai poteri forti, tra i quali spiccano i giornalisti. I poteri forti, che, ovvio. Sì, i poteri forti, tra i quali spiccano i giornalisti, che avranno sempre, come voi, i soliti privilegi. Ecco, io la vedo certo. Così. Non so se gli ascoltatori la pensano allo stesso modo, ma presumo di sì. Va bene, ovvio. Dai, le 9:38 minuti, vogliamo sentire un papà che con la moglie, quindi parla a nome della famiglia, ci ha scritto, a proposito di libertà, abbiamo parlato prima di libertà, allora mi ha contattato, ha detto, e io cosa devo fare? Noi abbiamo due figli disabili, siamo a casa, abbiamo anche la 104, quindi l'assistenza ai disabili, abbiamo lo stipendio decurtato da giorni, facciamo a casa da fisioterapisti, da educatori, da insegnanti, da psicoterapeuti, insomma siamo abbandonati. Andrea Pastore, buongiorno Andrea e grazie di essere qui. Buongiorno a voi e vi ringrazio insomma per avermi contattato, ho cercato per tanto tempo un riferimento e mi sono grato. Eccoci qua. No, ma noi se possiamo daremmo la voce a tutti, cioè siamo veramente subissati, ma ne siamo dispiaciuti da una parte e contenti dall'altra di richieste di visibilità di chi vuole cercare di dire guardate che ci siamo anche noi. Allora Andrea, ci puoi spiegare un po', io l'ho riassunta molto, ma la vostra situazione familiare? Allora, lei ha sintetizzato benissimo la nostra situazione, io aggiungerei solo qualche punto. Sostanzialmente noi abbiamo tre bambini, di cui purtroppo due disabili in condizioni di gravità, peraltro di recente è stato il giorno dell'autismo, il 2 di aprile, però fondamentalmente queste cose si risolvono sempre nella famosa giornata dedicata a, e poi tutto rimane nel limbo. Siamo chiusi in casa dal 23, sostanzialmente dal 23 di febbraio. I bambini disabili vivono. Dove siete fisicamente? In provincia di Udine. Perfetto. Sì. Da un lato siamo fortunati perché in teoria qui i servizi funzionano bene, però l'emergenza Covid ha fatto crollare un po' anche il supporto che qui era abbastanza favorevole per le famiglie. In particolare le nostre grandi difficoltà sono legate, appunto, come ha sintetizzato bene lei, al fatto che è difficile far capire a chi non vive la nostra situazione che il genitore non è solo il tutore legale del figlio, non è che lo accompagna solo a scuola o gli porta da mangiare. Il genitore nel nostro caso fa appunto il fisioterapista, lo psicoterapeuta, adesso anche il maestro di scuola materna o scuola elementare. E tutto questo si complica notevolmente quando hai tre figli. Noi ne abbiamo tre, due disabili, uno sì. Però piccolo. E no, ma infatti, ma diciamo, prima parlando con il professor Vito Mancuso di libertà, di tutela della salute, ecco, io la vorrei, cari ascoltatori, mettere proprio nel concreto nella storia di Andrea Pastore e la sua famiglia. Cioè, le libertà di Andrea Pastore, della famiglia, dei loro figli, sono in questo momento garantite, tutelate? Mi sembra di no, non sto dando la colpa a nessuno, sto dicendo un dato di fatto, ecco, non voglio, perché è facile pontificare, non voglio pontificare, però chi è che tutela la libertà dei figli di Andrea Pastore di ottenere tutto ciò che è loro diritto? In questo momento, no, mi sembra di poter dire, Andrea, nessuno. No, nessuno, e c'è un altro dettaglio che a volte si danno, io sento, insomma, leggo, si danno per soluzioni acquisite o soluzioni da ottimi risultati, alcuni strumenti che vengono che per carità sono positivi per chi non si trova in difficoltà, ad esempio la famosa didattica a distanza. Ecco, mia figlia ha un deficit sensoriale, è sorda. La didattica a distanza come può funzionare per chi non ha i sensi, certo, per percepire il segnale? Io penso anche ai ciechi, anche loro hanno la stessa difficoltà. Insomma, nessuno ha pensato magari di attivare dei canali. In fondo il mondo della disabilità è arci monitorato, c'è la 104, ci sono i verbali dell'INPS, c'è tutto un mondo che ci monitora quotidianamente. Perché non attivare in queste situazioni di emergenza queste reti al fine di contattarci e dirci qual è il vostro problema? Poi noi, per carità, lo facciamo, cioè nel senso ci sostituiamo, ma per quanto tempo? Un mese, sì, due mesi? Cioè noi dal 23 febbraio che ci stiamo sostituendo e verosimilmente ci sostituiremo fino a ottobre. Non lo so, io dico questo, poi Leo magari hai una domanda. Oggi il professor Remuzzi sul Corriere della Sera, non so quanto le farà, se bene o male, questa risposta, che dice le scuole ancora chiuse, chiedono, e Remuzzi, i bambini non si infettano, i loro genitori più o meno giovani difficilmente sviluppano malattie importanti, invece lasciamo le generazioni nuove a casa dei nonni. Un grave errore. Insomma, il professor Remuzzi, titolo del Corriere, dice è sbagliato chiudere le scuole. Per carità, ognuno ha la soluzione. Lei che dice? Ma io dico che con le dovute accortezze si potrebbe pensare anche a delle aperture parziali, cioè nel senso, non so, dei doppi turni, magari verificare la possibilità di fare un minimo di didattica a domicilio per chi è in difficoltà. Cioè la situazione peraltro si aggrava sulle spalle delle famiglie, e in prospettiva c'è il problema del lavoro, cioè io dovrò far rientro al lavoro, non è che posso rimanere permanentemente a casa. Peraltro noi siamo monoreddito. Peraltro noi siamo monoreddito, e paradossalmente chi è monoreddito non ha diritto a tutti ai famosi benefici babysitter. Cioè a me mi è stato risposto, vabbè, ma tanto sua moglie è a casa. E certo, grazie. Ma mia moglie è a casa con due bambini disabili gravi e con un bambino di un anno e mezzo, che fa questa donna? Cioè, oltre a Leo, fare la... io non so, insomma, questa storia come tante. Io immagino che in questo momento molte persone staranno pensando, vabbè, ma è una cosa che riguarda una minoranza di persone, una minoranza di italiani, quelli che hanno difficoltà. Ma io credo anche che invece il livello di civiltà di un paese consista proprio nel sostenere le minoranze e quelli che hanno problemi proprio nei momenti difficili, anche se magari non sono numeri enormi. E in questo probabilmente l'Italia ha sempre fatto un po' fatica, storicamente, credo. Mi permetto di dire che sono una minoranza anche gli anziani dell'RSA, sono morti tantissimi in Lombardia, appunto, proprio perché sono stati trattati da minoranza. E qua è il problema. No, ma è così. Andrea, ci faccia sapere, tanto adesso i contatti li abbiamo, insomma i contatti con la redazione, e ci faccia sapere se deve tornare a lavorare, come fa. Tra l'altro vive in una regione dove credo i livelli di assistenza sociale siano molto alti, nel senso questo sì, è un genere. Però al momento anche qui, essendo la cosa gestita da linee guida governative diverse, che a loro volta danno linee guida alle regioni, che a loro volta danno linee guida agli enti locali, tutti danno delle linee guida, ma nessuno dà poi delle soluzioni concrete, sì, e sì, quindi siamo in mano alle linee guida, ma le linee guida sono un'attività pratica. Grazie. No, beh, è chiaro. Grazie Andrea Pastore, ovviamente auguri, in bocca al lupo, ma noi siamo qua, ci risentiamo. Sentiamo Privato da Bergamo, cioè, ci richiama Privato, non è la prima volta, ricordo il nome, è talmente singolare, se mi permette, che lo ricordo. Privato, buongiorno. Buongiorno Mila, sì, avevo chiamato il 7 di aprile, poi ho scoperto anche che si fa un passaggio solo al mese, per cui mi sento un po' privilegiato oltre che privato. Va bene, prego, cosa ci vuol dire? Ascolti, sono un medico, 65 anni, ospedaliero, all'equilibrio di tutto, quindi all'equilibrio di necessità. Privato è caduto. Privilegiato, ma è caduto. Andiamo al traffico. Adesso forse ci sono accorti al centralino. Se ne sono accorti e c'è al scattata centralino. La ghigliottina. Sì, sì. Dai, traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Adesso vedrete che se riaprono le chiese, tutti questi vecchiacci ci vanno dentro senza mascherine o con le mascherine a metà, a mezz'asta, come fanno sempre, si impestano di nuovo tra di loro e per colpa loro ci tocca richiudere tutto quanto di nuovo. Vedrete che succede questo. Ma quale difendiamo gli anziani? Io mi difendo da solo, Mida, ma vai a fare in culo! Ci penso da me alla mia vita, alla mia morte, come vivere, come morire. L'educazione c'è, torna, sempre, torna, ovviamente. Sta tornando l'aggressività, bello, bello, stiamo tornando bello, come bello. Prima. Però sai che quello delle mascherine è un problema vero. Ieri ho fatto un piccolo sondaggio per strada e ho notato che circa un terzo delle persone in giro per strada tengono la mascherina messa male. Molti, tanti sotto il naso, alcuni sulla fronte. Io non capisco perché, visto che insomma pare che dobbiamo tenerla, tanto vale tenerla nel modo corretto. Invece un terzo di quelli che ho contato io ce l'avevano soprattutto sotto al naso. E non mi spiego e perché. E peraltro ha appena detto che era in giro Leonardo Manera. Chissà se aveva la giustificazione, chissà se sì, chissà se no. Va bene, va bene, va bene. Allora, io voglio salutare però, no, devi dire qualcosa, devi fare una polemica? No, assolutamente no. Ormai sono abituato alle tue fasi di denigrazione nei miei confronti, è un classico ormai. Allora dai, si scherza, oggi ho letto sul giornale questo tema, 4 italiani su 10, a proposito di didattica a distanza, no, 3 ragazzi su 10, 3 sono irraggiungibili perché non c'è connessione, non ci sono le linee, eccetera. Allora, noi abbiamo ricevuto in redazione una foto indescrivibile nella sua tenerezza. Ce l'ha mandata un insegnante di una scuola media, siamo in provincia di Enna, all'Istituto Comprensivo Giustinopoli, Tania Barcellona. Buongiorno professoressa Barcellona e grazie. Buongiorno a lei. Lei ci ha mandato questa foto di una tenerezza infinita, riguarda una sua alunna che per collegarsi ogni giorno, fa la prima media, deve andare in aperta campagna. C'è questa foto di uno smartphone messo su una cassa di Coca-Cola di diversi anni fa, con questa bambina, ragazzina, in aperta campagna, quindi se piove no, o c'è il sole... Tutto per seguire la lezione, perché lì c'è campo, no? Va lì perché lì c'è la linea praticamente, o no? Esattamente, è l'unico posto dove lei può captare, come dicevo io nell'articolo, la linea, un sub-domande che cerca l'onda per collegarsi. Lei si ostina con questo braccino a cercare il punto per collegarsi, annunciando la linea salta, fa fatica, però nonostante questo... segue la lezione perché ci tiene, perché è un tipo preciso, perché vuole entrare in contatto con l'insegnante, con la classe. Quando noi l'abbiamo vista in questa posizione ci siamo emozionati a tal punto da dedicargli un articolo sul giornalino della classe, della scuola. Certo. Ma volevamo portare alla luce anche queste belle realtà, perché la scuola è sempre bistrattata, la scuola è guardata sempre male, soprattutto da chi è fuori dal mondo della scuola, spesso non si vede l'impegno dei dirigenti scolastici, degli insegnanti, dei collaboratori, degli amministratori, viene guardata quasi come un'oasi felice. In realtà anche per noi è stato un momento molto difficile, sia per entrare in contatto con i ragazzi, sia per adeguarci alla didattica a distanza, difficoltà immani, non riusciamo a raggiungere tutti. Abbiamo raggiunto però anche Rosalia, che diciamo, vive in una situazione difficile, lontana in quel momento dalla cittadina. Questo l'abbiamo vissuto come veramente un successo. Sì, tra l'altro voi siete in una zona rossa, no? Come si suol dire? Siamo in una zona rossa. A Gira ha avuto tanti casi di Covid, tanti morti purtroppo, quindi è stata blindata. E questa ragazzina, avendo una fattoria, il padre si è trasferito in campagna, proprio perché doveva accudire questi animali da cortile. Quindi la ragazzina, insieme alla madre e al fratellino, si è trasferita per stare insieme al padre, ma ciononostante si è collegata, aveva tutte le motivazioni e le scuse plausibili per non collegarsi. E è stato veramente emozionante. Un giorno di pioggia e di nebbia abbiamo visto Rosalia dentro una macchina rannicchiata, proprio acciambellata, che seguiva la lezione. Io avevo le lacrime negli occhi, l'ho invitata a tornare a casa, ma lei si è ostinata a seguire la lezione, perché Rosalia è veramente una ragazzina di una precisione in gamba. Sì. Certo, e quindi ripeto, noi per una questione anche di privacy non possiamo pubblicare la foto sui nostri siti, però la foto che ci ha mandato Leo, poi te la mando, è di una tenerezza infinita, questa bambina, ragazzina ormai, insomma, prima media si deve dire ragazzina, che è lì in un campo tutta sì, forse anche un po' infreddolita nel giorno, sì, in cui avete mandato. Sì, perché c'è la Sicilia ogni tanto ha questo vento gelido, quella mattina era un vento veramente gelido, e lei nonostante questo non si è allontanata, perché la lezione stava per iniziare, probabilmente non aveva con sé il giubbottino, come ha visto si era preparato il suo banchetto ed era lì con il libro di storia dell'arte aperto, con il libro di letteratura, perché veramente ci tiene, ha fatto anche dei disegni su quel banchetto, e quindi veramente deve essere onorata questa ragazzina per quello che ha fatto. E noi insomma la ringraziamo con questa testimonianza, volevamo proprio onorarla. Ripeto, Tania Barcellona insegna all'Istituto Comprensivo Giustinopoli, siamo ad Agira in provincia di Enna, quindi in Sicilia, e Rosalia con i suoi 11 anni, prima media, non cede, ogni giorno va a cercare, no Leo, come ci ha detto, come il rabdomante, sì, che cerca l'acqua, lei cerca il segnale nel campo per seguire la scuola. Allora, caro Leo, è il tuo momento. Ci amareggerai, diccelo prima. Un po' sì, diccelo oggi un po' sì. Un po' sì. Allora, cari ascoltatori, preparatevi. Arriva una piccola dose, piccola, distillata di amarezza. Ma non tanto, non tanto. Non tanto. Allora, una delle necessità per i malati gravi di coronavirus è l'ossigeno, che permette loro di continuare a vivere, ed è sicuramente la necessità primaria, quella che drammaticamente ha caratterizzato questi nostri mesi di malattia, isolamento e paura. Poi c'è un altro tipo di ossigeno che però riguarda comunque la vita. Me ne sono reso conto ieri. Ero sceso nel giardino condominiale del palazzo dove abito per tirare due calci a pallone con mio figlio, quando è arrivato un mio vicino di casa. Stando rigorosamente a un metro e più di distanza, mascherinati, abbiamo cominciato a fare due chiacchiere sul calcio e sul cancello condominiale che si blocca troppo spesso, il classico parlare del più e del meno, che però non mi ha più fatto pensare al coronavirus e a tutti i problemi di questo periodo. Ossigeno per la mente, ossigeno anche per il cuore. Ecco, sarebbe bello e utile se, tenendo ben presenti le regole sanitarie, ognuno di noi potesse trovare un po' di ossigeno anche per la mente e cuore. In fondo ogni vita, ogni azione della vita può farci respirare anidride carbonica oppure ossigeno. Da bambini, per esempio, si respira anidride carbonica quando si vedono i genitori litigare, ma io ricordo ancora adesso l'ossigeno di quando, da piccolo, mamma e papà mi tenevano in mezzo a loro e, dandomi la mano, mi facevano saltare. Ossigeno quando andavo altissimo sull'altalena, con quel brivido che sentivo a linguine quando l'altalena andava più su. Ossigeno quando da ragazzino ho saputo che avremmo giocato una partita di calcio contro le giovanili del Brescia, per l'idea che forse qualche osservatore mi avrebbe potuto notare. Ma anidride carbonica quando ho saputo che sarei rimasto in panchina, e comunque poi abbiamo perso 8-0. Con me in campo avremmo perso forse 10-0. Ossigeno quando ho saputo che in prima liceo sarei stato in classe con una ragazza che mi piaceva moltissimo. Ma anidride carbonica quando lei, durante una gita scolastica, si è allontanata col mio compagno di banco, col quale da quel momento in avanti la convivenza a scuola è stata difficilissima. Ossigeno quando poi, crescendo, stai con la ragazza che ti fa battere il cuore e scopri che dividersi in due per amore non dà dolore, ma dà felicità. Ossigeno quando in estate, dopo l'affa della città, arrivi al mare, ti tuffi nel mare e senti il sale sulla pelle, la libertà sulla pelle, magari giocando tra le onde. Ossigeno è ogni volta che fai qualcosa in cui credi, magari insieme agli altri. Ossigeno è quando, dopo una giornata di lavoro, torni a casa stanco e fai l'amore con la tua donna in silenzio, sentendo solo il tuo corpo che parla insieme al suo. Ossigeno è quando fai un regalo ai tuoi genitori e vedi gli occhi di tuo padre che luccicano e tua madre che ti abbraccia. Ossigeno è quando ridi con tuo figlio. E ossigeno è vedere, questi giorni, per strada, che in fila per fare la spesa gli sguardi si cominciano ad alzare. È il segnale che l'anidride carbonica della paura, anche legittima in questo periodo, sta lottando con l'ossigeno della vita, che c'è sempre e comunque, anche dietro le mascherine, anche dietro le barriere di plexiglass, anche a più di un metro di distanza. Ma non è amarezza, è poesia questa. Ma sì, non è amarezza, no, non c'è infatti, nulla di amaro. Ma no, tu hai detto c'è un pochino di amarezza, invece sì, c'è tanta poesia. Io sì, ma io lo faccio letto per darti soddisfazione, perché so che okay, hai, bisogna a certe persone come un bambino dare un po' di soddisfazione. Esatto, come sì, bambino, sì. Va bene. Allora, abbiamo scoperto intanto nell'amarezza o nella poesia che ieri Leonardo Manera era in giro a parlare con persone e con le mascherine, e poi era anche in giro a giocare a calcio nel cortile con Benigni. No, non in giro, nel cortile condominiale. Hai violato altre disposizioni del DCPM di 12.72.94.3.4 codice 3? Sono andato al cinema, ma solo un tempo, un cinema clandestino che c'è qui vicino a casa mia. Il tempo, perché c'è stata un'irruzione nell'intervallo e quindi ti sei, come al solito, dato alla fuga, alla chetichella. Sì. Vabbè. Dato alla macchia, andiamo, mi sono dato alla macchia. Andiamo al giornale radio, va. Poi parleremo dell'orso, ragazzi, questa è la vera cosa. Hanno catturato M49 o Papillon, che dir si voglia. Ieri Elisabetta Fusconi ha detto non dobbiamo parlare di nient'altro oggi in trasmissione, di nient'altro, solo dell'orso che è stato catturato. Avete capito? Tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Manera, sei fantastico, hai un modo di parlare, hai un, come un passaporto dialettico spontaneo che puoi dire tutto quello che ti passa per la testa. Se il vecchio Buster Keaton avesse potuto parlare ai tempi della comicità muta, credo che sarebbe stato come te. Cioè, io questo me lo ritaglierei, è uno dei complimenti, e me lo sì, uno dei complimenti suoneria più belli che abbia ricevuto in vita mia, perché Buster Keaton è uno dei miei comici in assoluto preferiti. Hai tu un passaporto dialettico, cioè ragazzi, no, il passaporto sì, dialettico è riferimento a Buster Keaton. Sai che Buster Keaton non parlò mai nei film, tranne in un unico film che girò in Italia con Ciccio, Franco e Ciccio. È l'unico film dove lui dice una parola alla fine del film e dice ciao, ed è l'unica testimonianza in un film dove lui parla, perché invece negli altri film rimase sempre muto. Va bene, da Buster Keaton arriviamo a un altro che muto non sa stare. Anacleto, cosa vuoi, Anacleto? Buongiorno a tutti gli italiani, a voi due, alla redazione e soprattutto alla Chiesina. Alla Dimmi, Chiesina, a questo sempre proposito, Anacleto, tu lo sai che ha iniziato a scrivermi un assessore della Chiesina, stupendo, no? Dicendo davvero, se possiamo dare delle notizie sulla Chiesina uzzanese, capito, la grande Chiesina, ormai siamo entrati nella setta della Chiesina. Bravo, ecco, nella setta non della te Chiesina. Ne pentirai se venite tutte e due varaccattate con Lorenzino lì a Chiesina, vi divertite. Possiamo portare anche la Fusconcina e la Mina Lughetti, però. Portiamo anche la Elisabetta Fusconi, che hai sentito come parla tutta impostata, Dio buono, hai capito? Ma non parla impostata la sua parla voce! Parla tutto impostato così, sembra che mi scappi qualcosa dalla bocca, capito? Senti una cosa, sono un fila sì, qui, stamattina mi hanno sveglio alle 9, mi hanno mandato qui a pigliare il numero al supermercato. Ora ma dove? Al supermercato? A Prato. Sei al supermercato. E come mantieni le distanze, mascherine, tutto a posto? Sì, tutto male. La mascherina ora non va, non posso più parlare con la mascherina. Vabbè. Sono qui, ho preso il numero e ora c'è dentro la mia moglie. Aspettami. Detto. Ma quanto c'è di fila? Ma qui ci sarà ora 10 persone avanti. Ora, 10 ma persone. Prima sì, 10, ma qui è un di grossi, Conad City si chiama qui. Conad City, facciamo la pubblicità, capito? Così magari ti danno un chilo di banane gratis. A me non mangio nulla a questi giorni. Poi sulla meditazione, lo sai, depresso. Sembra provato, infatti, Anacleto. Anacleto. Gli hanno chiuso i bar. Sì, bravo, mettili il bar, la base amara. Dici un po' la giornata, tipo la base amara. Vai. La base amara, sveglia. Ieri mi sono svegliato, era mezzogiorno e 40. Ma come? Mezzogiorno e 40. C'è un'amarezza. C'è un andato giù, ho mangiato una minestrina al pomodoro fenomenale e poi sono andato un po' in giardino col bicchiere del vino, la bottiglia a riflettere. Poi sono andato su, era le 3 e ho guardato qualche serie lì di Netflix e poi poi ho guardato avanti un altro, poi sono andato giù, si era la cena. E poi sono stato un'altra mezz'ora fuori a meditare in giardino. A meditare. Sono ritornato su, si è visto una serie con figlioli. Siamo a livelli elevatissimi di amarezza, ma veramente io non ho mai toccato questi picchi, Anacleto. No, è impossibile. Oggi però devo andare a Montecatini che c'è una visita ortopedica e poi faccio il massimo della chiesina. Gioia, questo è il massimo della ma gioia. Quando scendo Sena Valle c'è un'area immaginevole che non c'era nessuna, neanche il coso, neanche a Cortina d'Ampezzo là c'è l'area. Vabbè, Anacleto, dai, ti dobbiamo lasciare in fila, ragazzi, mi si è stretto il cuore. Mi manca mi manca la partita a carte, mi manca qualche discorso al disco. E poi sai, quando sono alla chiesina do noi a tutti, o al bar appena mi vedano rompo coglione. Adesso dopo ti dico chi mi ha scritto l'assessore, intanto ti mandiamo un abbraccio, dai, ti lasciamo in coda al supermercato. Ciao Anacleto, io ti lascio, vado via perché mi sono demoralizzato tantissimo. Ci sentiamo lunedì. Ciao. La giornata tipo vabbè. Allora, Miriam Lucchetti fa una sfida a Lucchetti che è proprio una sfida a te. Non vorrei contraddire Leo, parte così Miriam Lucchetti, con me è sprezzante, invece con Leo ha sempre questo atteggiamento. Non vorrei contraddire Leo, ma Luci della ribalta di Charlie Chaplin è un film sonoro del 52 in cui compare anche Buster Keaton. Compare, sono due vecchi ma non parla. Ce ne sono molti di film sonori dove ha partecipato Buster Keaton, ma l'unico in cui parla è quel film girato in Italia con Franco e Ciccio, dove alla fine del film disse ciao. Cara Miriam Lucchetti, parla e come? Allora, Miriam Lucchetti ha abbassato i toni ha abbandonato i toni del rispetto e scrive: parla e come? Trovatemi Luci della ribalta con Buster Keaton doppiato che parla. Parla e come? Ce l'ho ben presente. Perché quel io sto film con non Miriam. Parla. Non so perché. Ben presente. Vabbè. Teniamolo lì, questo tema, parla o non parla, perché adesso dobbiamo parlare di un predatore, uno scippatore, un assassino anche, devo dire, un criminale, insomma, che è stato finalmente messo in gabbia. Si parla, ci dice chi è Carla Rocchi. Carla Rocchi, Carla, ciao, grazie per essere qui, presidente dell'EMPA. Criminale, scippatore, predatore, assassino. Vorrei venire a trovare perché per voi siete affetti stabili. Detto questo, a quale livello istituzionale vi state riferendo? Perché certo non parlate dell'orso con questi aggettivi. Sì. No, ecco, l'orso, guarda, l'orso è 49, pecore uccise, razzie di miele, di olio, di tutto ne ha combinate più di Bertoldo, non so, l'orso è 49. Allora, l'orso 49 ha fatto semplicemente l'orso, ma questo è imperdonabile in una situazione dove l'orso dovrebbe fare il fenomeno da baraccone. dovrebbe essere il divertimento dei turisti, ma stare fermo, farsi fare le foto con loro con i selfie. Io non so che cosa vuole questa bella gente che organizza queste battute di caccia. Cominciamo a dire che l'orso per quella regione, per quelle persone, è una rendita, perché per tenere l'orso lì queste brave persone prendono soldi dalla comunità europea, punto primo. Quindi l'orso è una rendita, l'orso è il loro reddito di cittadinanza, va bene? Ecco. Allora, bella questa, ma io infatti sono stato provocatorio, io sono totalmente a favore dell'orso, cioè trovo abbastanza incredibile questa caccia all'orso, caccia, l'hanno preso, l'ho visto in questa trappola tubo, vergogna. Tutto rinchiuso. Guarda, tutto una rinchiuso. Vergogna. Io non so quanto c'è di frustrazione da parte di chi si organizza queste belle storie, non so quanto c'è di piccola rivalsa, piccola rivincita. Vogliamo dire che un vertice importante di questa provincia voleva organizzare banchetti a base di carne d'orso? Non vogliamo parlare di questa, dell'attitudine, sì, capito? L'attitudine non è la difesa, perché l'orso, se gli allevatori si difendessero i loro animali con tutte le provvidenze che ci sono e anche con i finanziamenti che ci sono per queste provvidenze, l'orso potrebbe fare l'orso. D'altronde l'orso lì non ha scelto di andarci. Non parlo di questa creatura in particolare, ma l'orso primigenio se ne stava per fatti suoi in Slovenia. L'hanno voluto portare però sto M49 o Papillon, che dir si voglia, è un bel peperino, ma cioè, questo è un figo pazzesco, ma lo capisci che l'unica cosa che non si perdona è un figo pazzesco, spaziale, non si perdona a nessuno. Ma voi l'avete visti i persecutori di F, vogliamo dire, a quest'orso non si perdona di essere una bestia, dico io, una creatura intelligente, una creatura capace, uno che si fa i fatti suoi, uno che si nutre non facendo questi danni spettacolari che loro invocano, e che danni che potrebbero essere tutti risarciti come sono con i fondi previsti, che oltretutto arrivano perché lì c'è l'orso, perché l'Europa a questa bella gente gli dà i soldi perché lì c'è l'orso. Quindi, ma tra l'altro, senti un po', colpa quindi mia adesso, Leo, io no, dico, non riceverà più i fondi adesso che l'orso è stato catturato? No, perché diranno che loro non stanno dicendo che l'orso è, attenzione, l'orso diranno che va messo in una situazione di cautela, i soldi li pigliano sempre. Io sulla rinuncia dei soldi non ho un caso. No, però dicono che lo mettono con un esemplare femmina perché è stato tradito dall'amore. L'amore, cioè, ma stava. Ma se voi vi mettessero con un esemplare femmina, non di vostro gusto, lo ritenereste. Come lo ritenereste? Un premio o una punizione? Ma poi sai dove l'hanno messo? Questo abitava a casa sua nei boschi, l'hanno messo in due camere e cucina. Questo castellere è un postarello vicino alla città, dove io manco il gatto ci manderei. Capito? Sì. Perché il gatto mio sono effettivamente, effettivamente c'è questa cosa, cioè almeno fategli fare una scelta, mettetelo davanti a quattro orse e che possa scegliere l'orsa che preferisce. Bravo. Sei sessista in questo modo. Gli vuoi dare l'arem all'orso? No, ne sceglie una. Potrebbero avere gusti, voglio dire, questa è una roba che noi la umanizziamo per avere un momento di, come posso dire, di allegria e di compatimento verso chi ha messo in atto tutta questa operazione orribile. Questa è gente che si qualifica con quello che fa. Noi adesso abbiamo gli avvocati che si stanno muovendo, ma sono loro, insomma, in questo momento non c'è nessuno in giro. Oltretutto, se questi fossero osservanti delle cose che ci governano tutti, dovrebbero stare tutti a casa loro. Qual è il pericolo dell'orso? Che gli va a bussare a casa? Che sbrana le pecore, che ruba l'olio, Guardate, tra l'altro, no, è colpa mia, ho mandato, ma l'ho fatto al volo, a Leonardo, quindi adesso facciamo questa comunicazione, mi puoi mandare a quel paese. Leonardo, io ti ho mandato poco fa un pezzo di uno scrittore, Luca D'Andrea, che oggi scrive su Repubblica facendo finta di essere l'orso, un racconto, cioè un racconto dal punto di vista dell'orso. Ma tu, con la tua miopia, riesci a leggerne qualche riga? Oppure sì, è lunghina, rinunci? Però è lunghina. Ma no, ma leggi 10 righe, vai. Dice: chiamatemi Tullio, sono un orso trentino perché ci tengo, vi scrivo per rassicurarvi, sono orso, sono trentino, ma non sono mica mona, sapete, fiera stirpe di plantigrade, ve l'assicuro. E già che ci sono, puntualizziamo: che nome è M49? La mia mamma mica ci chiamava per numero, noi cuccioli eravamo quattro, io sono il maggiore, Tullio, che di cognome faccio Credolin, i miei due fratelli Tony e Beppi, e la nostra sorellina si chiamava Maria Concetta, perché a mamma piacevano tanto gli orsi marsicani. Loro sono ancora in giro, io invece sono finito in gabbia. La mia mamma ripeteva sempre: Tullio, se non fai il bravo, il forestale te ciappa e te porta via, perché già da piccolo ero un po' scapestrato. Appena si distraeva, scappava a guardare le funivie. Sono belle le funivie, su e giù tutto il giorno. Gli uomini ci salgono sopra e dondolano dondolando. Arrivano sulla cima della montagna e poi, per far prima e ricominciare subito lo spasso, mettono gli sci e scendono a valle veloci come lepri. Sono così ingegnosi gli umani, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, un bellissimo racconto di Luca D'Andrea, in cui appunto Luca D'Andrea finge di essere Tullio. Tullio, ti piace, Carla? Mi piace Tullio, molto, come dirò, no? che questo racconto finisce con queste parole: l'orso ci dà speranza. Lui dice: mi chiamo Tullio, sono un orso e ho un piano, non sono mica mona io. Allora, io confido, esatto, intanto nell'intelligenza dell'orso, non confido affatto nel senso di vergogna di chi ha messo in piedi sta baradam, ma tanto è tempo perso. C'è una persona in cui io confido, il ministro Costa, che si è dispiaciuto per questa cosa, si è molto dispiaciuto, ha detto che interverrà come potrà e con i mezzi che avrà. Io spero che ci sia buon senso, ma non dalle amministrazioni del Trentino nessuna, perché guardate, basta guardare le persone quando si rallegrano di una cosa mal fatta. Lombroso rivendica i suoi diritti, mi guardi Lombroso. Carla Rocchi che dice: è un gran figo questo M49 o Papillon o Tullio, chiamiamolo Tullio, spaziale. Cioè, è questo figo da spaziale. Fastidio, perché se fosse un poveraccio, un orso tutto rattoppato con i cerotti, direbbero poveretto che ha bisogno di qualche cosa. E invece, siccome è un figo pazzesco che gli porta soldi e tutto questo ambaradam fa come posso dire, fa notizia. Ma voi immaginate quando sta gente guarda l'orso e poi si va a fare la barba davanti allo specchio? Ve lo vedete il paragone? Ecco, guardate, fate un'idea. Carla, guarda, ci risentiremo, tanto sta storia di Tullio non è mica finita. Intanto andiamo a sentire il traffico, ti abbracciamo tanto. Traffico, poi devo dire che sfida Luchetti continua, tu veramente, caro Manera, adesso ne avrai da sentire sul coppino, e poi forse una sorpresa, chi lo sa. Avanti. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. 1 nessuno 100 Milan. Allora, caro Leonardo, sei pronto alla tua umiliazione? Ma sei pronto allora? Sfida Luchetti dice: nella sequenza in cui si truccano prima di entrare in scena Buster Keaton e Charlie Chaplin, dice Buster Keaton una cosa e dice una parola solo anche qui, praticamente. Il nostro Alpino l'ha recuperata su suggerimento di Miriam Luchetti. Sentirete Buster Keaton dire: thank you sir. Vai Alpino. No, after I'm carried off in the drum. Right you are. Thank you sir. Thank you. Thank you, sir. E tra l'altro abbiamo recuperato anche l'ultima parola che tu dicevi di Franco e Ciccio. Cioè, cos'è che era l'ultima parola che dice? Se non sbaglio, ciao. Sentiamo. Lei è il nemico più simpatico che noi abbiamo conosciuto. Grazie. Ecco, dice grazie. Marco, vabbè, grazie. Marco, ma... No, dice grazie, non dice ciao. Allora, io tra l'altro ha detto grazie in inglese e grazie e grazie in italiano. Allora io faccio notare una cosa del carattere di Miriam Luchetti, che proprio per spirito di contraddizione, quando io ho detto quella cosa senza che nessuno gliel'avesse chiesta, è andata a cercare appositamente qualcosa per contraddirmi. Certo. Per contraddirmi. Cioè, lei, questa la dice Miriam lunga. Luchetti non sapeva nulla di Buster Keaton, pur essendo una appassionata ed esperta di cinema, che davvero si è laureata in questo, e voi non sapete quanto lo sappia. Però è andato, è andata. Ah no, attenzione, c'è una controsfida. Luchetti dice: no, avevo la foto in cameretta. Di chi? Di Buster Keaton, immagino. Niente, quindi Leo non ne esci. Sa tutto di Buster Keaton. Sai tutto. Invece che no, allora, invece di farmi complimenti, perché io sapevo che no, una delle due frasi era con Franco e Ciccio, è andata a cercare di contraddirmi. Ma sento anch'io la musica. Adesso cosa sta succedendo, ragazzi? Ma di male in peggio, cosa succede? No, ti prego. Buongiorno, buongiorno. No! Eh sì, è per forza. Qua, Anacleto mi ha provocato, appunto. Sono qua a dimostrare ad Anacleto e a quanti possono essere minimamente interessati che non è che parlo con delle restrizioni corporee, come ha voluto sottintendere Anacleto. C'è la voce tutta impostata, come che dice Anacleto che c'è la voce tutta... Sì, tutta ti ho difeso. Hai sentito che ti ho difeso? Sì, anche perché è la prima volta in 20 anni che collaboriamo, per cui mi sono quasi commossa, Lino. Buongiorno, bene. State bene? Dalle sfide Luchetti a Elisabetta Fosconi in voce, io non so che cosa sia peggio. Cosa può succedere adesso di peggio, Leonardo? Tu? Ma non ho capito se è a Milano o in Svizzera in questo momento. Sono a Milano, vabbè, Leo, sono a Milano per quanto vengo dalla Svizzera e non vi dico cosa ho vissuto i giorni scorsi in Svizzera, denigrazioni, prese in giro. Commenti allibiti sul fatto che qui nel bel paese da una settimana si parli di affetti stabili. Cioè, affetti io vengo stabili. Da un paese dove dall'11 maggio verrà riaperto pressoché tutto, scuole comprese. Vige unicamente il buon senso, non è mai stata vietata la circolazione, se non solo giusto il divieto di assembramento per più di 5 persone. Dopodiché è stato tutto molto contenuto. E qui in Italia invece si parla di normare, ecco, che cos'è un affetto stabile. Cioè loro sono allibiti. Sembriamo allora, una gabbia una di matti da... Noi abbiamo una domanda. Perché tu vivi qui? Ancora, cioè, con tutto questo, perché con tutto questo ben di Dio che ti ritrovi a 100 chilometri di distanza, perché tu sei qui? Perché da vengo noi? Qui a studiarvi, cioè sono anch'io allibita in realtà, il fatto che siamo qui in questo paese, ma sì, si debba normare anche il colore delle mutande da indossare, ecco, sappiate che Oltralpe è una cosa impensabile, c'è vige il buon senso. Capito. Risponderebbero che in Svizzera c'è stata una situazione di contagi più contenuta, meno morti, eccetera, che eccetera. Non è vero, Leo. Non è vero, perché vi ricordo in Canton Ticino... che voi date 3 baci sulle guance invece che 2, quindi gli strani siete anche un po' voi, e tra non l'altro, solo noi che normiamo gli affetti e stabili. In proporzione alla popolazione c'è stato un altissimo tasso di contagio in Svizzera. Ciò nonostante non hanno ritenuto di vietare la circolazione, ma hanno ritenuto di introdurre l'obbligatorietà delle mascherine e dall'11 maggio via libera. Va bene. Qui tra l'altro ormai invece ti informo, sì, cara Elisabetta, come informo anche Leonardo, che arriva un messaggio che è: basta con gli ubriachi in redazione, Buster Keaton in luce della ribalta parla decisamente a lungo. No, Leo, Leo, oggi ti è arrivata una sonora umiliazione, mi spiace, io massima solidarietà. No, questo va dimostrato che parli a lungo. Beh, veramente hanno una sola scena in cui suonano insieme, quindi è impossibile che lui e allora, Charlie fino a un minuto fa dicevi che non parlava mai e ha parlato per solo me in un no. film io in resto ha detto della ciao mia idea, invece ha detto io, grazie sì, io, allora io come no. dicono tutti i politici rifarei tutto quello che ho fatto e che ho detto. Leo, non meritavi questa svergogna pubblica, sono d'accordo, sì. Guarda, non, devo dire, non è giusto. Devo dire, attenzione, Miriam Luchetti dice: e io non ho mai detto che dice una sola parola, chiarisco, cioè è stato abbandonato a se stesso Leonardo. Niente, Manera. Ti sta pungolando sua... oggi, non ti molla. Tutti, Leo, Miriam. Ti stanno abbandonando tutti alla tua vergogna e alla tua figuraccia. Allora. Faccio solo notare che nel film con Franco e Ciccio dice una sola parola, poi che sia ciao o che sia grazie non cambia la sostanza. Comunque non importa, se vi divertite così, se queste sono le vostre soddisfazioni, va bene, fate Beh, pure. Ti abbiamo anche messo Despacito, che è la tua canzone più odiata. Grazie. Ti mettiamo questo, potremmo fare un trittico, mandarti un fluoro o un'Adriana, per cui tu passi tutto il weekend lungo in un'amarezza, in uno stato di prostrazione totale. Però non lo faremo. Va bene, Elisabetta. Allora, baba, ciao. Sì, è stato bello. Al mio lavoro. Viva la Svizzera, viva la Suisse, viva... ma viva anche l'Italia con le sue contraddizioni, la sua teatralità, dai, che ci dà da parlare sempre e comunque. Grazie, allora torna al tuo lavoro. Leonardo, noi domani saremo in onda, è una puntata un po' particolare, sì. Primo maggio. Ma in diretta o è un meglio di? Non lo so, me lo stai dicendo Eccolo. Tu. Vabbè, ma non si dice così in maniera breve, un meglio di. È ovvio che ho meglio di, ma non volevo dirlo così in maniera. Te lo potevo scrivere via SMS che potevi stare a dormire in vestagliona, ma privatamente. Adesso tutti sanno che è una puntata registrata. Vabbè, l'importante è che io non debba scrivere niente per domani. Ecco, ma te lo scrivevo privatamente, è inutile spiattellare le nostre. Allora, rifacciamo, cari ascoltatori, voi non avete ascoltato l'ultimo minuto. Allora, domani siamo regolarmente in onda, semplicemente, caro Leo, andiamo in onda dalle 9 alle 10, un pochino meno, un pochino meno. Ma è una puntata normale o meglio di? Senti, Leonardo, dai l'urlo di battaglia e che valga fino a lunedì. Vai. Va bene. Domani c'è un meglio di. Uno, nessuno.